ucciso ai bagnanti, si è smarrito un signore di nome Pierluigi Pardo. Tutti convocati di Carlo Genta. Clamorosa in ultima frazione, mostro, Pellegrini sulla Svezia. Un mostro, Federica Pellegrini, il sorpasso. Un mostro, Federica Pellegrini, il sorpasso. Stati Uniti irraggiungibili. Italia in seconda posizione. Occhio al recupero della Cina. Federica deve resistere. Oro Stati Uniti. Argento per l'Italia. Un argento storico per la prima volta. Saliamo sul podio mondiale di una 4x200 stile libero. Sinceramente io non mi sono resa conto di niente, poi io vedevo solo la cinese, ho detto dai Fede, non mollare, non mollare, non mollare, poi comunque Alice è stata molto brava a lanciare questa staffetta nel modo migliore possibile, poi Erika, poi Chiara, insomma abbiamo dato il massimo e sinceramente, onestamente pensavamo fosse molto più difficile. Beh, diciamo che è il primo risultato veramente concreto a livello internazionale e mondiale. Di sicuro noi, anche se fino adesso i risultati non erano venuti se non in campo europeo, ci abbiamo sempre creduto e siamo contente di averlo reso possibile oggi. Vabbè, ormai le parole mancano per descrivere quello che ha fatto Federica Pellegrini, ma ieri anche le altre tre bambine meravigliose della staffetta della 4x2, un altro titolo, un'altra medaglia che non avevamo mai provato ad assaggiare, quindi Federica Pellegrini, ultima frazione mostruosa, con lei 27 anni, con Erika Musso 21, Chiara Masini Laccetti 22 e Alice Vizzau 22 anni. E rimane l'interrogativo di ieri, insomma, è un gioco, è soltanto un gioco, ma che sta appassionando molti, perché vedo un po' ovunque Federica Pellegrini accostata alla foto di Federica Pellegrini, accostata a quella di Valentino Rossi, accostata a quella della Vezzali, e la domanda che rimane alla luce anche dell'impresa di ieri è: ma è davvero la più forte atleta dello sport, della storia dello sport italiano in campo femminile? È ovvio, adesso sull'onda dell'emotività verrebbe voglia di dire di sì. Ci può stare. Non so come la pensate voi. 800 24 00 24. Tra l'altro stamattina ai mondiali di nuoto, poi torneremo a parlare, vi faccio sentire le voci invece della sfortunata campagna azzurra, per quanto è sfortunata, si fa per dire, perché comunque c'è una medaglia di bronzo e una qualificazione olimpica da conquistare, però l'Italia ieri del sette bello, perso contro la Serbia 10-6 senza essere mai realmente in partita. Ora bisogna battere la Grecia nella finale per il terzo posto, non solo per guadagnare la medaglia di bronzo, ma anche e soprattutto per strappare il biglietto di qualificazione alle Olimpiadi di Rio. Quanto ai mondiali di nuoto, e poi passiamo al calcio, la Lazio che ha pescato il Bayern Leverkusen nel preliminare di Champions League. Andata a Roma il 18 agosto, ritorno in Germania il 26 di agosto. Poteva essere United che invece ha preso Brucia, poteva essere Valencia o Monaco che invece si affronteranno nel playoff più incerto, più difficile, più complicato. Invece Lazio Bayern Leverkusen 800 24 00 24, ed è fondamentale per la Lazio e per il calcio italiano saltare questo ostacolo. Un'altra cosetta sui mondiali di nuoto, perché c'è una curiosità che si è concretizzata e materializzata stamattina, perché abbiamo visto in acqua una bambina di 10 anni gareggiare ai mondiali con, ovviamente non quelli juniors, non quelli giovanili, ma con le grandi, nei 50 farfalla. Si tratta di Alzain Tarek del Bahrain, ha gareggiato con alcuni mostri sacri, ovviamente ultima in batteria, 41.13 il suo tempo, con batteria vinta dalla Sjostrom svedese, che invece è un mostro dichiarato, e uno squalo dichiarato 25.43. Non ci sono limiti per la FINA, limiti di età per la partecipazione ai mondiali, e per questo abbiamo visto anche una bimba di 10 anni nuotare con gli squali. Oggi ho chiamato mio amico Gianni De Biasi per prima cosa per congratularmi. Ciao Gianni. Ciao Carlo. Adesso è ufficiale, lo possiamo dire, nuovo ranking UEFA, l'Albania è 22esima, ovviamente risultato, stiamo parlando di risultati storici, in questo caso altro risultato storico, poi vedi chi c'è dietro, ci sono la Francia, la Danimarca, gli Stati Uniti, la Russia, la Svezia, la Serbia, la Grecia, potrei andare avanti. Non male direi come risultato, no? No, direi non male, solo questa è la soddisfazione, non male, qualcosa di più di non male. Bene, sì, bene. Qualcosa di più? Bene, bene. Sì. Direi che la cosa buona è che siamo riusciti a fare un lavoro che nasce 3 anni fa e che grazie un po' al contributo di tutti i miei collaboratori siamo riusciti a creare un gruppo di giocatori di buon livello e che quando stanno insieme si danno una grossa mano per riuscire negli obiettivi che ci poniamo di fronte. Anche una buona generazione di giocatori, Gianni. Sì, una buona che sta facendo esperienza all'estero, che gioca meno ovviamente in Albania, che però nei campionati della Svizzera, in Germania, in Italia, da noi sicuramente stanno facendo quell'esperienza che serve per essere competitivi a livello internazionale. Quindi tu sei uno di quelli che dice ragazzi andate a giocare all'estero, andate a giocare da un'altra parte, andate in campionati più competitivi, questo sì, perché ti restituiscono molto. Sì, sicuramente c'è la possibilità innanzitutto di fare esperienze nuove, di incontrare scuole di pensiero di calcio diverse e al tempo stesso anche loro hanno la possibilità di essere gratificati con contratti diversi da quello che potrebbero prendere in patria. Sì, poi anche uomini mercato come Isai, passato al Napoli dopo lunga trattativa. Sono molto contento, è un ragazzo che avevo segnalato più volte a qualche altra squadra anche in Serie A, io credo che sia un giocatore di grande prospettiva, un giocatore importante che ha la facilità di giocare in entrambe le fasce e probabilmente con l'aiuto dell'allenatore che aveva nella passata stagione riuscirà magari a inserirsi meglio nel progetto Napoli. Gianni, un'ultima cosa, noi abbiamo invece qui in Italia, come pensando, disperato bisogno di avere 3 squadre in Champions League e speriamo di farcela con la Lazio. Ha pescato il Bayer Leverkusen, 4° nel campionato tedesco, una montagna di punti di distacco dal Bayern di Monaco. Poteva andare meglio, poteva andare peggio, ostacolo superabile, no? Sì, superabile. La Lazio è sicuramente una squadra di buon livello che nella passata stagione ha fatto vedere delle cose veramente molto molto buone. Ottimo lavoro di Pioli. Credo che se hanno fatto una preparazione mirata proprio anche per questo preliminare, credo che potremmo avere le 3 squadre, almeno quello che, alle quali ambiamo un po' tutti. Grazie Gianni, complimenti ancora. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie Carlo. Ciao. Buon lavoro Gianni. Ciao. De Biasi con l'Albania, ripeto. Sarà tra l'altro nostra avversaria nel girone che ormai conosciamo insieme alla Spagna e alle altre meno quotate, l'Albania che sarà nostra avversaria sulla via dei mondiali. 800 24 00 24, numero verde, tra poco parleremo anche di mercato con questo risvolto della Sampdoria che ieri è andata a Novi Sad, andava per salvare la faccia, non tanto una qualificazione già compromessa dopo lo 0-4 di Torino con il Vojvodina, ha vinto 2-0, non è mai stata in discussione la qualificazione, ma l'onta è stata almeno in parte lavata, la panchina di Zenga è salva e adesso Zenga avrà un regalone, sapete già quale? Antonio Cassano, contratto da 800 milioni, 800 milioni non li prende neanche Ibrahimovic per il meccanismo che vi spiegherò dopo, 800 milioni di lire neanche, si tratta di 800 mila per un anno con opzione per il secondo, ma a quanto pare, ma poi ci informiamo meglio, a quanto pare a questo punto aspetta solo a Cassano mettere la firma e andare a Bogliasco a fare allenamento e Zenga zitto e pedala perché ormai sei uscito dalla Coppa, caro Walter, Cassano non lo vuoi, te lo becchi perché così vuole il presidente, vuole fare io credo, ma altro che. E poi Zeko è arrivato a Roma, sarà finalmente presentato in tripudio giallorosso, c'è da domandarsi se Romagnoli finirà al Milan ed è il ritornello di questi giorni. c'è Ibrahimovic che per le cose che ho detto oggi con il cavolo che viene al Milan, perché ve lo spiego subito dopo il traffico, perché Pardo non c'è mai, e uno dice ma è a fare delle telecronache, che è a fare la boa al largo di Fregene. Tutti convocati. Tutti convocati. Sentire ieri l'intera curva sud, l'intera tifoseria giallorossa invaso Fiumicino per accogliere Edin Dzeko, che è arrivato, che è il nuovo giocatore della Roma, insieme a Salah, e ha acceso subito cori e fantasia. Perché Ibra non andrà al Milan? Secondo quanto leggo, starebbe lo sceicco Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, in braccio destro di Altani, lo ha blindato, e sta discutendo con emiri e sceicchi la possibilità di un nuovo contratto di 3 anni, di cui uno al Paris Saint-Germain, contratto che ha già, quindi per 15 milioni netti a stagione. Poi, sempre nell'ambito dello stesso contratto, una stagione all'Al-Sadd, che è anche la nuova squadra di Xavi, con un ingaggio che quei 15 diventeranno almeno il doppio, considerata anche la tassazione dell'IVI vigente. E poi, per quanto riguarda il terzo anno, sempre nel quadro dello stesso contratto, perché sarebbe praticamente l'uomo dello sceicco in un unico grande quadro, terzo anno di contratto al Miami di David Beckham, sempre che Beckham riesca a costruire per tempo uno stadio, perché altrimenti la Lega americana, se non hai lo stadio, non ti fa giocare. Guardate un po' che strani questi americani. Comunque, se non dovesse riuscire questa impresa, il contratto sarebbe lo stesso valido e sarebbero 2 anni al Paris Saint-Germain e il terzo all'Al-Sadd. Mi dite voi perché Ibra dovrebbe andare al Milan adesso? Di che cazzo stiamo parlando? Michele da Siena, Gianluca da Milano, 800240024, numero verde. Buongiorno Michele. E buongiorno a voi da Siena. Vorrei sottolineare la grande impresa di Federica Pellegrini. Sì, fa bene. Se ci fosse stata un'altra atleta, con tutto rispetto per le altre 3 staffettiste, saremmo arrivati quinti, sesti, settimi. Cioè, invece, per fortuna di tutti noi... Per fortuna abbiamo i grandi campioni. Approfitto della Pellegrini per riagganciare il discorso dei grandi club di Milano. Inter e Milan senza grandi campioni non andranno da nessuna parte, lei è d'accordo? Senza campioni non vai da nessuna parte, comunque, almeno ad alto livello, che siano Inter e Milan oppure qualunque altra squadra. Senza campioni non si vince, e non solo nel calcio. Per quanto riguarda Federica Pellegrini, secondo me il punto davvero mostruoso è la longevità agonistica. A questo livello di un atleta di questo tipo, che fa questo tipo di sport, cioè sono tante componenti che mi portano a dire: forse mai avevamo visto una signora italiana così grande nel nostro sport. Gianluca Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Mi ricollego al discorso Pellegrini. Mi piaceva molto il giochino, la tua grande atleta di sempre, quei giochi da bar molto chiaro. Io non sono tanto d'accordo, cioè, non si discute la Pellegrini, per carità. Però si dice spesso la Vezzale, la Tornellini no, perché è uno sport, mi passa il termine, il cosiddetto minore, la scherma, piuttosto che. Però è anche vero che la scherma sono 6 titoli, il torretto, la favola e la spada. Di volte ci sono 60 medaglie per la maschile e 60 medaglie femminili, quindi comunque ci sono più possibilità. La Pellegrini è una grandissima. Se devo fare la classifica io, beh, viene in mente la Compagnoni, viene in mente, viene in mente Maria Canins, viene in mente Paola Pezzara, quella della bike, della mountain bike. E poi c'è una persona che non ti aspettavo in linea il vostro intervenire, che è stata una ragazza che ha vinto un oro alle Olimpiadi nella mountain bike e 4 anni dopo l'ha vinto nel ciclismo su pista. Mi pare che si chiamasse Bellucci, Antonella Bellucci. Sì. Può essere? Sì, sì, può allora, essere. Se guardiamo questi, se guardiamo le imprese, secondo me questo è inattendabile. Purtroppo nessuno le considererà mai perché ripeto, sono sport minori. Però la Pellegrini, ragazzi, sono... è sotto saliente, secondo me. Non lo so, sono classifiche delle quali non verremo mai a capo, anche perché dipendono dagli imprescindibili gusti personali, dagli imprescindibili parametri personali che ognuno di noi ha e ha diritto di tenersi. Io considero comunque il nuoto una disciplina come l'atletica in cui c'è una concorrenza spaventosa delle più grandi potenze, quindi... non sto dicendo è più difficile lì piuttosto che dall'altra parte, è difficile sempre, però bisogna tenere conto anche del bacino di utenze in cui ti vai a muovere. Carlo Laudisa, buongiorno. Gazzetta dello buongiorno. Sport, ciao, come stai? Come va? Beh, tutto so. Bene, tutto bene. Senti, ho fatto sentire prima i cori per Dzeko, abbiamo visto la presentazione di Salah in una stanza piena di giallo rosso. Finita sta storia di Salah? Sì, io credo che siamo ai titoli di coda, nel senso che magari ci sarà anche qualche altra puntatina, ma è fatto. Ma la Fiorentina da Valle ha esposto le sue ragioni, parte anche da sottoscrivere, ma alla lunga alla FIFA prevale la volontà del giocatore, sì. Che non a caso gli è già stato concesso il transfer provvisorio in attesa poi dell'esito dei vari ricorsi nelle varie sedi. Quindi tutto fatto e a questo punto la Fiorentina potrà fare ben poco. Secondo te Dzeko è stato il miglior colpo del mercato italiano? Ma io continuo a pensare che do in exequo a Dybala per rispetto anche dei progetti, dei programmi, perché Dzeko è un centravanti di primaria importanza, affermato e è costoso anche per quello che è l'operazione. Dybala costa quasi il doppio, però è una speranza. Diciamo che l'immagine può essere lo slogan, lo spot per gli investimenti in bianconeri. Sì, senti, ma finirà sta storia, altra vicenda con 1000 puntate di Romagnoli al Milan? Sì, siamo anche qui agli sgoccioli, perché credo che appunto arrivato Dzeko, risolta la questione Salah, destro che ormai è sulla strada di Bologna, fatica a vendere gli altri Sabatini, quindi ha tutte le ragioni per spiegare alla sua piazza che può sacrificare, anzi deve sacrificare il prodotto del vivaio. 25 milioni ben pagati. Sì, assolutamente. Prima ho provato a spiegare perché Ibra non può venire al Milan, se le condizioni messe dallo Sheikh in questa trattativa sono reali, cioè 3 anni, uno ancora al Paris Saint Germain a 15 milioni netti e poi all'Al-Sadd a guadagnarne magari il doppio e quindi terzo anno a Miami, oppure 2 anni a Parigi e uno all'Al-Sadd, sarebbe qualcosa di unico nella storia del calcio, cioè dipendente personale dello Sheikh, ti piazzo qui, lì e là per lanciare i mondiali in Qatar, per rilanciarmi nel calcio americano. Tra l'altro Sheiko accompagnerebbe, credo, come sponsor l'avventura di Beckham. Beh, come fa? Ballano 60 milioni per un giocatore di 34 anni, potrebbe essere, è l'ultimo contratto della sua carriera probabilmente, e davanti a questi soldi come fa a dire no? Ma io dico che questa proposta, questo scenario era già in atto a giugno, quando Zlatan, Ibrahimovic e Mino Raiola viaggiarono dove incontrarono Nemiro Tani e il presidente della Federazione Life, però quella proposta è rimasta solo una parola, non è stata prospettata, e io dico, se il PSG ha così voglia di chiudere questo tipo di accordo, perché non l'ha già fatto? Tra l'altro il dato di fatto ulteriore è che ieri in conferenza stampa alla domanda il presidente del PSG con il sorriso ha ribadito che Ibra ha un anno di contratto al PSG, quindi nulla di più. Io ho l'impressione che sia tutto nelle mani di Ibra, perché potrebbe esserci anche uno scenario parallelo che poi magari si conclude sempre negli Stati Uniti. Sì. Con un passaggio da Milano, sì, quindi... per cui la vicenda io la la considero ancora aperta. Quindi potrei fare un passaggio a Milano e poi, una volta libero da vari vincoli, scegliere la sua destinazione, che sia anche tra gli Stati Uniti, comunque guadagnando una montagna di soldi. Un'ultima cosa ti chiedo, Carlo, per Zenga ha vinto il pacco Cassano, giusto? Ha vinto il premio, sì, Cassano con il 2-0 di Vojvodina. Ma ieri a Gazzetta TV mi sono permesso di fare una battuta: Fantantonio batte l'uomo ragno. Finisce così. Finisce così, perché comunque Zenga rimarrà fino a quando poi i risultati lo consentiranno, però è evidente che ha perso la partita più importante. E Ferrero voleva Cassano e lo avrà. Un'ultima cosa: Balotelli non vuole proprio nessuno, giusto? Neanche a prezzi stracciati di saldo pagato dal Liverpool. Nessuno è disposto a mettere una fissa su Balotelli. Oggi è così. Da qui al 31 agosto vedremo. Grazie Carlo, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti. Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, in cui abbiamo buttato lì un po' di temi. Se vi interessano, se no, se ne volete degli altri, ce li abbiamo. 800 24 00 24, numero verde. Tra l'altro, in questo weekend, ne parleremo dopo, incomincia la Premier League, l'unico campionato europeo forse non avere un padrone già definito. Parte anche la Ligue 1, ma lì il monarca assoluto c'è, e appunto si chiama Paris Saint Germain. Prima della borsa vi faccio sentire questa voce, sempre in chiave mercato. Uno degli uomini mercato, sapete meglio di me, è Maximovic, valorizzato dal Torino e da Ventura. Ventura però non ci crede. È bizzarra la situazione, cioè la società dichiara di non aver avuto nessuna richiesta e si parla in continuazione di Maximovic, quindi mi chiedo chi ha parlato con Maximovic. Non dovrebbero parlare con Maximovic, dovrebbero parlare col Torino, cioè io, ma non so chi sono, quindi credo che non sia neanche vero. Se è vero è gravissimo, ma ripeto, è un problema che non mi pongo. Quindi il Toro costruisce la muraglia cinese intorno a Maximovic, muraglia cinese che potrebbe essere sbriciolata solo da un'offerta clamorosa, lì si va dai 20 in su, eh. Sotto quelli Cairon non apre neanche la porta. Ci fermiamo per la borsa invece, torniamo subito dopo. 800 24 00 24, per chiacchierare con noi fino alle 3. È sicuro? 100%? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire? Arieccici. Convocati. Tanto sembra un proposito del mercato, è fatta. Grande colpo del Bologna, perché è praticamente fatta l'operazione destro. 11-12 milioni e il Bologna avrà quello che resta, secondo me, un signor centravanti. Avrà indiscutibilmente quest'anno, senza se e senza ma, la maglia da titolare, e vediamo cosa combina. Alberto da Biella, Michele da Venezia, 800 24 00 24, il numero verde. Ecco che anche su Sky stanno facendo il giochino: ma è la Pellegrini la più grande di sempre, o è Sara Simeoni, o è Tania Cagnotto, o è Josefa Idem, o è Novella Calligaris, o è Maria Canins, o è chi volete voi. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senti, una piccola riflessione: importantissimo l'arrivo di Ibrahimovic, se arriverà, ma io ritengo che il Milan abbia bisogno di un fortissimo centrocampista. Il problema è a centrocampo. Io mi auguro che non se ne parla, ma sì che si lavori sotto traccia per il centrocampo. Cosa mi dice in proposito? Che è corretto, che il Milan ha, secondo me, bisogno per prima cosa di un grande difensore centrale, che dovrebbe essere Romagnoli, e questo al punto numero uno. Quanto al centrocampo, si fa nome di Witzel, si fanno diversi nomi, è arrivato Bertolacci, che è un ottimo rinforzo, un eccellente rinforzo. È tornato Montolivo. La scorsa stagione il Milan era disastroso a centrocampo, cioè secondo me aveva un centrocampo da metà classifica, conciato com'era. È stato rinnovato De Jong, che è un portaborracce, potrebbe essere inserito su quella linea anche Bonaventura, che secondo me è stato il migliore del Milan insieme a Menez nella scorsa stagione. Dunque un po' di ciccia in più c'è rispetto all'anno passato. Certo è che sulla via della ricostruzione di una squadra al massimo livello, difensore centrale e centrocampisti, non si può prescindere da lì. Michele Venezia, buongiorno. Dottor Ginta, grazie per avermi convocato, nonostante questo caldo torrido, 38 gradi in questo momento. E a Milano mi sa che viaggiamo sui 37, alto tasso di umidità. Allora, che dobbiamo fare? Una domanda veloce. Pogba, con quel numero 10 sulle spalle quest'anno, non è che gli peserà come un macigno? L'ascolto, grazie. Grazie a lei, Michele. Numero pesante, l'ha preso anche Felipe Anderson. Cambia numero, prenderà il 10 anche lui. Io credo che Pogba, insomma, abbia già la personalità sufficiente per portare il numero 10 della Juventus senza troppi problemi. Tanto il ruolo è quello, Allegri ha detto, mezzala è, mezzala rimane almeno per il momento, magari un giorno forse eventualmente potrebbe anche giocare davanti alla difesa, però non ne faccio una questione di numeri. Pogba può reggere e come quel numero. Allora, parte il campionato inglese, la Premier, domani. Sentite come. They said, Thierry, is this the best league? I said, let me get back to you. That's life. And Alex Ferguson can't contain himself. It's Fergie time. You ran hard. German humor. Polymore quoting. Now you bow with the champ. Questo... qui abbiamo solo l'effetto sonoro che per radio non si vede, provare a descrivervelo è difficile, però questo spot di presentazione alla Premier League è veramente una genialata, con Thierry Henry di nero vestito, ovviamente in borghese, che entra in vari momenti storici della Premier League, lo si vede accanto ai giocatori, in mezzo al pubblico, seduto in panchina, in porta, eccetera eccetera. Premier League che andrà su Fox Sport. Nicola Ruggero, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Bello lo spot, eh? Bellissimo, sì. Ho avuto modo di ammirarlo. Devo dire che conferma come la Premier League, soprattutto a livello di marchio, sia per distacco la prima lega del mondo. I risultati, a mio parere, non seguono in questo momento questa forza, però è certo che quando tu hai quella disponibilità di denaro che da questo scaturisce, è ovvio che sei destinato in ogni caso a essere protagonista. Io voglio farti un passare questa domanda qui, che non c'entra col calcio, però è un po' il tormentone di questi giorni, e la faccio a Nicola Ruggero perché è re dei multidisciplinari, quindi Nick, decatleta. Decatleta Nicola Ruggero con ampissima competenza. Pellegrini la più brava di sé, lo vedo riproposta anche da Sky in questo momento, questa specie di sondaggio, la più grande atleta italiana di sempre in campo femminile? Guarda, su queste questioni che sono sempre divertenti per un motivo, che nessuno ovviamente ha mai torto, nessuno ha mai torto, perché è già difficile paragonare. Faccio un esempio, Pellegrini a Novella Calligaris, che sono state tutte e due nuotatrici, perché con 40 anni fa, quando correva Novella Calligaris, era un mondo totalmente diverso. Sicuramente la Pellegrini lo è per il numero di anni in cui è rimasta ai vertici. Se pensiamo che la sua medaglia importante fu Atene nel 2004, l'argento, e quindi sono passati 12 anni, ecco, per resistenza ai vertici direi che soltanto Sara Simeoni può vantare un curriculum come quello di della Pellegrini. Ci sarebbe anche Deborah Compagnoni, però ci scontriamo con uno sport, lo sci, che per numero di partecipanti è ovviamente molto più limitato rispetto a nuoto atletica. Guarda, io farei così, così la facciamo breve. È un atleta di cui in ogni caso si parlerà da qui ai prossimi 50 anni. È chiaro, come facciamo ancora con Novella Calligaris, come facciamo ancora con Sara Simeoni, no? Esatto, cioè, è uno di quei simboli dello sport italiano che meritano un pantheon assoluto, e tra l'altro nel caso della Pellegrini con tante pagine si spera ancora da scrivere, perché l'anno prossimo c'è comunque l'appuntamento di Rio con le Olimpiadi, e insomma un atleta che riuscisse a essere protagonista in quattro Olimpiadi diverse in uno sport come il nuoto, che ripeto, come l'atletica, magari non come l'atletica, ma insomma è uno sport comunque universale dove possono vincere gli europei, gli nordamericani, gli australiani, ogni tanto si vedono asiatici come per esempio cinesi o giapponesi o coreani. spesso anche sudamericane, quindi comunque uno sport di larga universalità, ecco, un atleta che sia in grado per quattro Olimpiadi diverse di essere protagonista, a mio parere merita il riconoscimento non solo dello sport italiano, dello sport in assoluto. Sicuro. Parliamo di un atleta che entrerà nella leggenda, come Sicuro. Ha detto tra l'altro un'altra leggenda come Franziska Van Asmink. Certo, e comunque lì quando la musica si fermerà, allora faremo i conti, perché qui Federica sta andando avanti, hai ragione tu. Torniamo. Diciamo che già adesso è una leggenda. Sì, già tutto adesso quello che è una farà leggenda. In più sarà un'aggiunta, ma dalla leggenda non lo sposto più nessuno. Nick, parlami del campionato che inizia domani. Due notizie di oggi sono Baldini via dal Tottenham e Manuel Pellegrini che a sorpresa ha rinnovato il contratto con il City, ha prolungato di un altro anno fino al 2017. È l'unico grande campionato europeo senza un padrone e con molti ricchi. Tanti ricchi sicuro per i motivi che dicevo in precedenza. La notizia di Pellegrini è sorprendente perché si pensava che Pellegrini fosse a un punto di non ritorno, cioè o vinceva quest'anno qualcosa di importante, non che non l'abbia vinto, lui ha vinto il titolo due stagioni fa, però sicuramente non ha fatto il City quel passo di qualità che ci si aspettava, anzi probabilmente i risultati con Mancini alla fine sono stati migliori rispetto a quelli di Pellegrini. La notizia di Baldini via del Tottenham mi dispiace, perché penso che sia uno dei manager più preparati che ci sono nel calcio, perché ti vede che lui è stato inghiottito da questo Tottenham che rappresenta un grande mistero, squadra che ha una tradizione favolosa, una storia fantastica, tanti soldi a disposizione, ma che evidentemente questi soldi non riesce a poi trasformarli in risultati di grande qualità. Tottenham è sempre la squadra a cui manca la lira per fare il milione, quando, come si diceva i tempi della lira, e oggi gli manca il centesimo per fare l'euro, ecco. Campionato sarà divertente, con un Chelsea che di fatto non si è rafforzato rispetto all'ultima stagione. È arrivato Falcao, però non so come le gestirà Mourinho, perché c'è Diego Costa in avanti, quindi sono due ruoli molto simili. Falcao che insomma deve far dimenticare un po' l'ultima stagione con il Manchester United. A proposito del Manchester United, vedo tanta confusione in Bangala. L'anno scorso aveva voluto fermamente due acquisti, Falcao in prestito dal Monaco e Di Maria strapagato al Real Madrid. Bene, dopo sei mesi praticamente se n'è disfatto, certo, perché gli ha messi in panchina da partire da gennaio e poi gli ha smollato sul mercato. Anche se poi Di Maria è riuscito a recuperare comunque oltre 60 milioni di euro. Sei d'accordo sul fatto che che il Manchester United, che tra l'altro gioca proprio con il Tottenham nel match di apertura, il primo big match stagionale, sei d'accordo sul fatto che sia la vera grande domanda del calcio inglese? Sì, ma è il punto interrogativo. Soprattutto mi chiedo se Van Gaal fosse l'uomo giusto, perché ha da sostituire Ferguson, perché Ferguson ha sempre abituato a delle campagne acquisti che miravano a dei progetti a medio-lungo termine. Raramente Ferguson ha acquistato giocatori con più di 30 anni. L'unica eccezione mi sembra che fosse Sheringham, che era l'elemento che mancava a Ferguson per far grandissimo lo United fino agli anni 90, e non a caso lui con Sheringham in squadra vinse la tripletta, campionato, Coppa d'Inghilterra e Champions League. Nel caso di Van Gaal vedo un accumularsi incredibile di centrocampisti, ce ne erano già molti, adesso sono stati aggiunti anche Schneiderlin e Schweinsteiger, vanno ad aggiungersi ad Herrera, Carrick, a Mata, una quantità industriale di giocatori. L'attacco è stato indebolito perché non c'è più Van Persie, che sarà soltanto Rooney come prima punta. Credo che l'unico acquisto veramente all'altezza, e qui non mi capisce la mia fede granata, ma lo penso sul serio, sia stato quello di Darmian, perché il Manchester United doveva rifare tutta la difesa, ha cominciato soltanto dall'esterno destro in un modulo a 5 o eventualmente anche in un modulo a 4, che insomma dovesse cambiare idea Van Gaal. A mio parere Darmian è l'unico acquisto sensato. Dovevano essere cambiati due centrali, non è stato fatto, il Manchester ritrova con Smalling, con Evans e con Jones, che è un centrocampista adattato, quindi lo trovo una squadra come l'anno scorso, con molti buchi dal punto di vista difensivo. Certo, dal punto di vista dell'attacco ha una tale quantità che le partite rischiano sempre di finire 5-4, non si sa però se a 5 arriva il Manchester o sarà gli avversari. Esatto. Intanto altra notizia di oggi, pare sia De Gea che ha avuto il foglio di via da Van Gaal, può andare al Reale. Ha fatto fuori anche lui. Si apre anche il cuore del portiere, aveva preso tra l'altro Valdés al Barcellona l'anno scorso, l'ha già congedato. Insomma, mi sembra uno abbastanza schizofrenico nella gestione. Ah, non c'è dubbio, Nick. Non vedo benissimo tu United. Vedo molto Vedo molto bene l'Arsenal quest'anno, vedo molto bene, però l'Arsenal, sono sempre quelli, sono sempre quelli belli e bravi, ma che alla fine rimangono mani vuote, sì, come direbbe Mourinho, non lo dico io. Però quest'anno ha già cominciato proprio togliendo un trofeo a Mourinho, sì. Mourinho non l'ha presa per niente, no, bene, non benissimo, la medaglia lanciata in tribuna, ecco. Non l'ha presa per niente bene, quindi mi direi che l'Arsenal possa comunque dare fastidio anche al Chelsea se staranno tutti bene, perché se risolveranno problemi di infortuni vari, Walcott, Wilshere, lo stesso Giroud che non è stato lungo fuori, e insomma l'Arsenal potrebbe anche fare una, un grande campionato. Me lo auguro, perché è una squadra che gioca benissimo per tradizione, cioè, se Wenger avrà molti limiti, ma sicuramente le sue squadre sanno giocare bene, e quindi chissà, potrebbe essere la sorpresa. E poi c'è il Liverpool, che è il grande punto di domanda. A mio parere ha fatto una buona operazione con Sterling, perché non posso credere che Sterling, per quanto giovane, posso avere quella cifra. Ha preso Milner, che invece è mister utilità, giocatore spaventosamente sottovalutato. A proposito, ho saputo che il Daily Telegraph ha pubblicato la classifica di sopravvalutati e di sottovalutati. Ne abbiamo parlato a lungo. Che te ne pare? Sono impazziti, eh? No, un ascoltatore mi ha detto, ma questi qui sono a destra. No, beh, ci sono dei nomi tra i sopravvalutati, ci sono gente come Baggio, come Rulli e come Gerrard. Francamente, Ibrahimovic quarto in classifica? Mi sembra un po' neanche con tutta la relativa simpatia di Ibrahimovic, ci può pensare che sia il quarto nella lista dei sopravvalutati. Però mi fa molto piacere che al secondo posto di sottovalutati ci fosse Costa Curta. Hai visto? Che a mio parere è giusto così, perché si parla sempre di quel Milan, giustamente, dei Paresi, dei Maldini. A mio parere parla sempre invece sotto traccia di Costa Curta, che è stato un giocatore molto intelligente, un grande professionista, non a caso giocato fino a oltre 40 anni di età. Anche un ottimo commentatore di certo, Sky, ma sai chi si ricorda un po' le storie, si ricorda bene come Costa Curta fosse l'ideale complemento del gioco di Franco Baresi, perché è velocissimo nei recuperi e ha forse permesso a Franco Baresi di essere quel mostro che è stato, forse sto esagerando. Esattamente, sì, almeno su questo ci hanno preso gli inglesi, su altri invece ho delle serie perplessità. Nicola, grazie. Ci sentiamo in onda, Nicola Ruggero, quindi su Fox Sport, Premier League. Allora, strade? Sì. Poi abbiamo Carlo da Napoli e Massimo da Roma. Lui sai dov'è Pardo, io lo conosco, è sullo yacht di Briatore, con la Gregoracci che gli porta un cocktail. Tutti convocati. Tutti convocati. Arresto, tiro, canestro per Jerome Dyson, non lo ferma più nessuno, 8 punti consecutivi per Jerome Dyson. Ora non c'è un abisso tra le due squadre, perché 7 punti sono recuperabili, ma non sono mai state così distanti in un overtime. Questo era un highlight sonoro delle ultime finali di basket che hanno incoronato Sassari. Spesso mi domandate, ma dove posso vedere questo, dove posso vedere quello? Una delle notizie della settimana è che il basket televisivamente ha trovato non una ma due case, perché verrà ripartito tra Sky e Rai. Rai e Sky. Rai che si è assicurata al pacchetto Gold e quindi trasmetterà su Rai Sport, ma potrebbe anche essere su Rai 3, leggevo, in alcune situazioni. Il match di cartello di ogni giornata della regular season, quindi presumibilmente quello della domenica sera alle 20:30, e quindi tutta la Coppa Italia e l'intera sessione dei playoff. Sky invece avrà due partite settimanali a scelta tra l'anticipo del sabato, l'anticipo della domenica a mezzogiorno e poi certamente il posticipo del lunedì, il Monday Night. Quindi una partita sulla Rai, due partite su Sky per quanto riguarda la regular season, e per quanto riguarda i playoff Sky avrà la possibilità di offrire i due match dei quarti non trasmessi dalla Rai. In più, tutte le semifinali e tutte le finali andranno su entrambe le emittenti in contemporanea. Carlo da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Posso aggiungere un nome nella Hall of Fame delle signore dello sport italiane? Sì, certo. Valentina Vezzali. Ma Valentina Vezzali, no, Valentina Vezzali è certamente sul podio, ce l'abbiamo messa subito, anzi forse il mio podio è Pellegrini, Vezzali, Simeoni, forse il mio podio, poi è solo un gioco, cioè chi mi scrive che ci dimentichiamo della Belmondo, ma insomma di grandi signore dello sport fortunatamente ne abbiamo avute molte. C'è anche chi scrive: Federica Valentino, sono extraterrestri quindi non possono avere paragoni, e io sono abbastanza è chiaro, stiamo giocando, sono suggestioni, ma sono abbastanza d'accordo dal punto di vista, la dico grossa, filosofico, su questo accostare Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Ma per il fatto che sono riusciti a rimanere al top assoluto, al vertice assoluto per tutto questo tempo, facendosi beffe del tempo che passa, facendosi beffe dei ragazzini terribili, dei demonietti, e Valentino Rossi correrà un gran premio estremamente importante domenica a Indianapolis. Poi sentiamo anche la voce, anzi la sentiamo subito, sentiamo Rossi e Lorenzo in conferenza stampa prima di Indianapolis. Indianapolis è una pista difficile fisicamente, è una pista molto molto molto faticosa, e soprattutto la settimana prossima poi c'è subito Bruno, no? Quindi dovremo spostarci dall'America all'Europa e subito correre un'altra volta, quindi non ci sarà tanto tempo per allenarsi. È un campionato tiratissimo, soprattutto con Orge in questo momento siamo vicinissimi, no? Quindi bisogna cercare di attaccare, bisogna cercare di fare il massimo e bisogna cercare di arrivare davanti e prendere più punti possibili. MotoGP in questo momento c'è un livello e una esigenza per tutte le parti, no? I piloti sono molto competitivi, le moto sono molto, molto equilibrate, molto igualate, e devi essere perfetto per provare di vincere a rivali come Valentino, come Marquez, no? E per questo dobbiamo provare di non sbagliare e fare sempre il meglio di noi. Questi erano Rossi e Lorenzo alla vigilia di Indianapolis. Oggi mi è piaciuta molto una foto che ho visto, un accostamento grafico che ho visto, stiamo facendo appunto di questi giochi tra Pellegrini, Valentino Rossi e Alex Zanardi. E penso che siano delle vicende sportive meravigliose che abbiano un diritto di cittadinanza comune, cioè per ragioni ovviamente diverse, ma a me ciò che sorprende di più è la longevità ad alto livello, considerato soprattutto come ti consuma lo sport di oggi. Massimo da Roma, buongiorno. Buongiorno, devo dire una cosa, il fatto di tutto il giorno fatto, stare tanti anni usando solo il proprio fisico, tipo Mennea, tipo Gimeno, tipo Pellegrini, È difficile. Sì. Valentino Rossi c'ha la moto, senza moto non va da nessuna parte. Ho capito, ma bisogna essere atleti anche lì, perché sì, però atleti provate, in senso completo. Io ho fatto atletica per tanti anni, provate a fare atletica o nuoto solo col fisico, 10 anni come ho fatto bene ad alto livello, è una cosa è impossibile, è difficile, ci vuole testa, fisico. È impossibile, dovete solo provarlo. Questo paese, se nelle scuole magari mandassero questi campioni per spiegare ciò che vita fanno. Mennea, che io ho conosciuto personalmente per tanti anni, praticamente era un frate, era un monaco. Cioè, quindi, perché se non poteva fare quella vita lì, se non viveva da monaco. Ma guardi, perché questa è la vita di tutti i grandi sportivi che arrivano a primeggiare a quell'età, ma di tutti, non, nessuno escluso, e nessuno sport escluso, perché diciamo tutti: ah, ma Ronaldo, bravo, Cristiano Ronaldo, bravo. Sì, Cristiano Ronaldo è uno che si fa un culo così tutti i giorni, più degli altri, che si allena come un disperato. Michael Jordan, perché è arrivato al livello cui è arrivato? Perché era uno che si faceva ammazzare piuttosto che smettere di allenarsi, piuttosto che smettere di avere la fame di vincere. Non ce n'è uno di tutti questi che hanno avuto una carriera così longeva al massimo livello senza avere quel sacro fuoco lì dentro. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno che ce l'ha fatta con il solo talento, non ce n'è uno che ce l'ha fatta magari ogni tanto facendo flanella. Tutti i grandi atleti che hanno avuto una carriera così lunga, vi sfido a trovare qualche esempio contrario. Sono sempre stati atleti che avevano dentro il fuoco dell'allenamento, e più passano gli anni, più ti devi allenare, più ti devi allenare, più devi essere preparato, più devi fare sacrifici, perché questa è la vita dei campionissimi. Salvatore da Vittoria, andiamo in Sicilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho sentito menzionare tantissime, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Ho sentito menzionare tantissime campionesse, non penso che sia all'altezza di Federica Pellegrino, ovviamente, ma Fiona May non l'ho sentita. Fiona May, ho anche un messaggio. Fiona May è stata una grandissima atleta, però secondo me non equilibrata. No, assolutamente. Non a quei livelli, ma visto che si parlava di tante certamente altre. Fiona May comunque è stata una delle grandissime atlete dello sport italiano. Vedo che ci stanno giocando molto anche le televisioni. Sondaggio su Sky era prima Pellegrini, seconda Belmondo e terza Vezzali. Questo è il sondaggio. Sì, così, no? Prima c'era Josefa Idem. Ah, ok. Si vede che ho visto il sondaggio riaggiornato. Non ho visto il sondaggio riaggiornato. Comunque, vale lo stesso discorso. Fiona May, grandissima atleta, però se stiamo parlando del podio del Gotha, non penso possa stare da quelle parti. C'è chi menziona, ha ragione, l'ha fatta anche ieri Alessandra Sensini. Beh, ve l'ho detto, per fortuna il nostro sport femminile è una miniera è una galleria di grandissime atlete. Non dimentichiamoci di Tania Cagnotto, un pensiero ad Annalisa Sidoti. Mi scrivono tutti gli ascoltatori, sarebbe bello continuare questo gioco, ma orario estivo fino alle 15, quindi chiudiamo qui. La settimana prossima vi lascerò qualche puntata da ascolto con alcuni dei momenti più interessanti e più divertenti che abbiamo vissuto in questa stagione di Tutti i Convocati. Poi naturalmente riprendiamo in diretta la settimana successiva, si avvicinerà al campionato, torneremo a 1:30, tornerà Pardo, insomma tutte queste cose. Intanto ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Giovanni Melchione in redazione. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Ma bravissime. Ragazze, grazie. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Ciao.